appassionato e si prende quello che vuole, lasciamolo fare. Ma così allora fa la guerra. Ehi, sto scherzando, da ognuno può farci i bai di biasi. Io mi rimagno, ognuno si rimagna con i bai di biasi, io mai. Lei posso ammattersi cose. O saranno, no, non sono appassionato a quelle cose, per quello, ma non mi sono mai piaciuti, capito? Preferisco rimanere così. Ehi, lo lascio giallo. Ehi, aia. E beh, stamattina è uscito, sì, o no? Sì, lascio un po'. E tua madre, come sta, come sta? Sembra che sta bene, mio marito. Vedi così. E non sta andando, però. Dove? Poi tocca andare. 72. Per favore, mio marito. Un popolaccio la paga, ragazza. E chi? Una ragazza abita prima del palazzo di Maria, è stata a quarto piano ed è morta. Ha fatto 10 anni va via. Oh boh. Ecco. Ma un disciavia chi sa? Piazza dei Turi. Poi sono orientati che sono andato a accompagnare, sono venuto a accompagnare la Marina, c'era la polizia e c'era la gente, le abbiamo chiesto, una ragazza era ancora in terra, era quando siamo arrivati era coperta, no? E su c'era il medico legale e niente, nulla, molto. Sì, cazzo, la rugheria, per carità. Ma allora aveva qualche cosa, ma forse era malato questa ragazza. Ma uno che fa una cosa del genere non è sano, no, lui. Solo lì lo sa. Lo so. Praticamente ha sbattuto metà corpo al cordulo. E proprio. Il cordulo è quello dove tu cammini a marciapiede, Mari. Quel coso ha, quello è il cordulo. E a quanto ho sentito, dice quei ragazzi che abitano lì, forse si è spaccata in due, allucinante, sono anche dei fiori nel terrazzo, abbiamo messo un quarto di fiori, è alto, già è alto il terrazzo di Marina, che è il terzo, è il quarto, perché si è spaccata, non c'è che aveva problemi di salute, ci sono altri problemi, vabbè, spiega dalla madre che è morta da poco, insomma tutte queste cose. Sì, senz'altro, una cosa del genere aveva qualche cosa, purtroppo, vedi, nemmeno te l'aspetti, cosa può succedere alla una persona. E poi è una persona giovane, ragazzi. Purtroppo, quell'incidente di Giamendola, quella donna sotto il camion. Anche quella, vedi. Io capisco, una ragazza di 14 anni, cosa può fare? Delusione d'amore? Non esiste. Tipo quella che c'era buttata nel 2014, lì in zona Luna e Sole, per delusione d'amore. Ma a 15 anni? Lo so, a 15 anni, Gio Maria, ma delusione d'amore a 15 anni? E quando vai 60 anni allora? Ma va, no. Cioè io capisco che uno ha problemi di salute o che magari gli hanno diagnosticato un tumore, non so, tante cose, può anche, cioè alla fine non si vuole curare, non vuole soffrire, lo fa, ma una bizzina di così io Mari vibro in bocca. Non lo sappiamo noi, però chi la sapeva quella persona, perché ce l'aveva evidentemente qualche cosa, l'è passato per la testa, perché se no non avrebbe fatto, evidentemente può essere come tu hai detto, questa è anche una delusione d'amore, perché è 15 anni una, oggi non è come, come 30 anni fa lui, oggi se tu guardi le ragazze girano la testa, girano la testa, noi come quando eravamo ragazzi, per dire quel ragazzo io, che certe volte magari ci stava anche giornata intera aspettando che scendesse, non scendeva mai, invece adesso va la donna a cercare l'uomo e quando l'uomo non accetta e succede anche questo patatrac come viceversa, capito? Lo so, poi c'era il medico legale su che stava facendo le foto dal terrazzo verso il basso, no? Dove c'era il cadavere. infatti io non riuscivo a guardarlo appunto, io all'esterno, come tu entri, no, al primo palazzo lì, è pure il punto più alto, ma una cosa assurda, dice che si è buttata alle 10:30, e ancora era in terra prima di notte, e stavo andando, cioè stavo a guardarlo via, all'edico per portarlo via dopo. Non è uno spettacolo bello vedere una cosa del genere, lui. Non è uno spettacolo, ma mi è capitato e ti dico che è meglio non vederli di queste cose, perché ti lascia un segno sulla mente, capito? Vedere queste cose, per carità, e purtroppo troppe cose stanno succedendo, per cui non lo so, qualche cosa aveva quella ragazza, se no l'avrebbe fatto, capito? Te l'ho detto, gli è morta la mamma anni fa, poi non so in casa come erano, ci siano problemi, solo lì lo può sapere, se è un incidente, non si sa niente ancora, domani si saprà qualcosa, in giornale. Male gli fanno l'autopsia per se ha preso qualcosa, avrà fatto uso di droga, no, ma di pastiglie, psicofarmaci, infatti era tranquillissimo. E chi lo sa, no, se non sappiamo niente, Giovanni. Ripeto, non l'abbiamo visto, ma neanche l'ha scoperto. Quando ti coprono, se non c'è niente da fare. Hanno provato, mi sa, ma se non erano, hanno provato a rianimarla, vero Mari? No, perché mi sa che è morta sul colpo. No, sul morto, sul colpo è morta. Infatti. Ehi, allugrida, un colpo del genere, caspita. Ma poi sì, lui ha. Purtroppo, cazzo, una ragazzina che ci a che punto stiamo arrivando, tutta esaltata la gente, non c'è più serietà di nulla, di nulla, sono tutti bicchiati una cosa o l'altra, sono succedendo queste cose. Purtroppo sì, e ora ci vuoi fare. Io penso che era successo qualche risa o qualche, so, sai qua, ogni tanto bisticciano, non ce l'ho. Vabbè, ma sicuramente, come ti ho detto prima, è per la mamma che gli è morta qualche anno fa. Che era morta. Solo lei sa quello che è successo, nessuno lo può sapere. Che lasci che sia anche dalla parte della mamma. È scioccata e per cui non capisce più niente. Ed è successo quello che ha fatto. E purtroppo è così. Oddio, per carità. Poi a tutta maniera, tutti i giorni, qua, là, da tutte le parti. E per cui troppa gente sta morendo, troppa. Sì, o muore di lampo o muore di drone, noi dimmo, Scusa un attimino che c'è il telefono a lui. Come sta lui? Ciao Mari. C'è il telefono, Scusa, mi ha sentito anche io 10 minuti, dai, le prendo su. Ciao. Ci viene a lavarmi la schiena? Ci viene a lavarmi la schiena? Una cosa mi sta dicendo. Vieni, c'è un po' di polvere, dai, stavo lavorando oggi, Che succede? Ma io c'è più vendi. Che travaglio quando più vivo, C'è come se non mi stanco. Io sono vivo, canarello. Tu, più vecchi? Io sempre travagliato, c'è più vendi, va pure, c'è più vendi, c'è più vendi, io gioco. Mettendo a posto, mando, ciao. Addoppo. Sempre pieni di miseria, no? Sempre in fare sempre pieni di miseria. Quello, la miseria purtroppo ormai ci ha circondato e non si può fare nulla. Vabbè, ma te sei sempre pieni niente, chissà, non vai, ma... E sempre cascendi. Ma sì. E chi la villa, quando è che la fine? Che la Gorizia. A dopo, ciao. Ciao. Faccio Maria, mi ha il telefono Marigliera. E io sono rientrato, dai. Stanco, stanco. Sta lavorando troppo lui. Sì, lui sta lavorando troppo, è tutto sciuppato, è senti... nemmeno lo sento l'apparecchio, ti puoi immaginare, da te a lui c'è un abisso. Sì, ma lui può finire, Giovanni, la carità, meglio l'usa. Poi hai ragione, forse hai ragione, per carità. Va, se ne va salta, poi se la via non ripote più, Che cos'è, non parli, eh? Dai, io mi attento 10 minuti e arrivo subito, Che va tanto? Bello beh, canta a parli adesso, no? Sotto mattafara, rilendosi. Giovanni! Ehi! Io ho notato una cosa comunque, da quando Luca è frequentando i chivi e morendo un sacco di gente. Ah, vero? Ma ci sono proprio... ci sono ammazzando i brufi, cioè non è a dire che... capito, giovani mi... boh, io non lo so, ma fa cosa si innanda? Ah, no, sarà, dove grido, No, Luca è un ragazzo bravo, È un ragazzo bravo, Luca, così che dopo... non ci appartiene a quelle cose del genere, lui è una persona seria. E la poi si domanda, chissà come mai si è ammazzato, si è buttata dalla finestra. Che non tiene Tornero Monte invece? Che caso vuol dire quanto monte a te? Bravo lui, bravo lui. Ormai a me qua mi conoscono lui. Tu te ne devi andare. Certo, noi passava una di casa, ma vanno a due, mio Giammarì. Ma che fate che va a pigliare la residenza lì e per cui non si muove, ma l'ha posto un lucchetto, Marino, come si chiama, per cui non si muove là, Gli hanno usato il strisci, ya. Si fa la presidenza, i chivi. Dali la faggia. Graziano. Attento, Gamboni. Tornere, va a seguire, va a seguire, o è i preparativi da rimani, e preparate per la cosa che si deve cucinare domani, o se ho cilindri di capricci da internet. Davvero, bisogna di Dio, se ho cilindri da internet dei capricci. L'altro acceso ce l'hai? L'altro acceso ce l'hai? No, perché avevo un po' se... c'è l'attino, mi stava dicendo che stavo uscendo a tratti. Avevo un po' com'è la situazione. Prova. Sono a bagno. Che è detta? Così facciano sì. Qui è radio, sono. Ma che acceso hai quel pezzo della moto, come farlo? È la moto mia? Cosa ti soggo? Tanto lo smonto e ti arrangi, basta che non mi fai... non so, tu cosa vuoi fare? Non lo so, c'ho i joker, c'ho le fiamme, c'ho il carbonio, c'ho... insomma, qualcosa di colorato. Non lo so. Secondo te ora ci sta bene? No, deve piacere a te lui, non è questo, capito, deve piacere a te, è inutile che se non ti piace a te, questo tipo di pellicola, forse vuoi fare le foto di quello che ho? Non lo so, non è che lo tieni molto, perché io la moto appena il tempo è buono la uso, Ma cosa? Una settimana, dipende. Tutto dipende. Cosa ti prende? C'è una settimana, aiuta, la vagona. E te la posso carteggiare io se da carteggiarmi. Se ho una mano io, non mi voglio una ghetta a farlo, lo fai subito. No, Luca. Aspetta un attimo, sto balato. Poi giorni, 3 giorni, dipende lui. 3 giorni, tocca, lo porto qua, lo cubico, lo riporto lì, bisogna darmi il lucido. Già so che ti pende. E lui! Vorrei cubicare l'antenna di mamma del televisore, ma la fai? Aspetta un attimo. Aiuto, mi sei l'attore, me lo cubichi. Graziano! Graziano, cuffo.